Leoni. Gracias. trasmissione su Parra Mobile, direzione Catania. Caffa, saluto, l'hai sentito Peperoncino, in compagnia di Natalino. Caffa, avanti Natalino. Avanti. Caffa, c'è Peperoncino, c'è da Catania. Figlia. No, ma vieni avanti Peperoncino. Mi è arrivato bene bene bene e poi non c'è più. Poi mi stanno telefonando. Lei a capo Natalia, non c'è problema. Oh, la pubblicità era. Dimmi Natali. Una pubblicità era, giù mandata a Fanguala, seduta stante. Beh, hai fatto bene, hai fatto. E chi è avanti? Ci sentirà fuori ogni tanto Natali, vuole entrare. Se vanno e vengono sicuramente. Incappa. Io lo sentivo benissimo, mi arrivava fortissimo quello lì. Davvero? Cazzo, credo che l'abbia inteso Burudu. Sì, quello Peperoncino sì, mi arrivava fortissimo sì. Però per un pezzo, poi non l'ho più sentito. Aria in ogni baria. Evidentemente la propagazione si è avviata. Sicuramente sì. Ehi, se c'è accendiamo a Gigi. A vedere che arrivi. Sì, infatti. Vabbè dai, ci sentiamo anche che devo mangiare, dai. Sennò no che il sacco chiuso non rimane in piedi. Beh, è normale, Natali. Non ti preoccupare che se ci sono già sono in radio io. Tranquillo. Sì, altrettanto. Perché io mi trovavo in ascolto a Bongo Rosquece, ma non ti indica sul QRM. E io c'ho buono sempre abortante, era abortante. L'ho invitato a entrare, se gliel'ho detto. Se rimani a fare così io manco ti rispondo più. E infatti non lo rispondo. Quando metti la portante non rispondo. A che so Google? Vabbè. Non lo so. Comunque. Se io già ci sono, già ti rispondo, stai tranquillo. Sì, quello è poco ma sicuro. Vabbè, tu grazie per le quattro chiacchiere, da. Al limite se ci siamo stasera stai lavorando, quindi non ci si. Ci sentiamo alle prossime, dai. Non lo so ancora, Natali, devo trovare una risposta, non lo so ancora. Sì, capo, allora se ci sei già vuol dire che non dovevi lavorare. Speriamo invece di sì. Almeno ti metti qualche soldino in tasca. Beh, certo. Dice che mi volevano fare l'assunzione. Ancora sto aspettando per essere fisso. Ah, cappa. Già prego per te che ti possano assumere. Un po' di gente cattiva c'è anche lì nell'azienda che non mi piace. Già ti spiegherò. Secondo me è pure gelosia, vabbè, comunque, non è un problema, mi hanno messo anche alla prova avanti ieri, ma è tutta cosa di bivati, devi smontare tutto l'impianto, e io però l'ho smontato, mi sono occupato un culo, però l'ho smontato. E infatti l'unica cosa è non dare confidenza a nessuno, fatti i cazzi tuoi e fregatene quando ti assumono. Cosa cazzo è gente mara in ogni arucu. Sì, purtroppo la questione è questa. Gente che può fare entrare di figliori, mi compreso. Secondo me di pigliare gli erosi, non ti puoi mai fidare dei colleghi. Ma proprio no. Cosa vuoi fare? Infatti, non ti puoi fidare soprattutto dei colleghi, non ti devi fidare. Non fa vita mai di nessuno, a chi sono una massa di gente cattiva, già ne so qualche cosa io, non ti preoccupare. Ma è tutti buoni, io raggio bisardi così, raggio bisardi che no, non ti puoi fidare molto. affidamento, io non mi fido, per esempio io ho poca, cioè sì scherzo, rido e cose, però certe situazioni non mi fido a dirle molto perché li conosco. Me. E fai bene. Vabbè, ci sentiamo, va. Alle prossime a tu. Ok. Ciao Natale. Comune lavorato con lui, sto lavorando. Va bene, bene Neda, comunque tutto a posto, sì. Tutto a posto, tutto a posto. Si tira avanti, va. Vabbè, siamo piano, siamo piano, guarda, guarda. Marino, dai, ti devo salutare che io vado a nanna, un po' dormo, mi faccio qualche pirnichella e poi vado a prendere il bambino. Benissimo, tu, grazie, controllo. Mi ha fatto piacere, grazie. Ok, buona pirnichella, ci sentiamo, poi va bene, dai. Ok, grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, Marino, ci sentiamo. Passiamo col frigorifero, no, non c'era. Come è che facciamo questa? La prima testa.